Claro intelletto, intanto il mio compagno di viaggio si mangia le chewing gum. Ma fanno bene per la voce, sai? Sì, però fa schifo sentirmi in diretta. Vabbè, anche sul blog. Si sentono anche sul blog. Sì, ma è un po' tecno, ma è una tecno, insomma, che ricorda brutti momenti. Allora, claro intelletto, Mark Stewart, per tornare, che non è quel Mark Stewart di Pop Group, quello storico, insomma, del dub industriale, bensì artista anch'egli inglese, che ha un chiaro riferimento con quello che è, ma finisce di mangiare, anzi ingoia la cosa di direttamente. Personaggio, insomma, si muove dentro quel suono post-techno che recupera addirittura i primi periodi. Non si va al pre-techno, ma alla techno iniziale, quel suono addirittura elettro-techno della ricerca del battito perfetto, Looking for a Perfect Beat di Africa Bambaataa o appunto Dek Chia. Ma discorso loro, che poi mi unisce anche rispetto al discorso europeo che abbiamo anche tracciato, insomma, nella prima parte, è sicuramente un rigore scientifico quasi nella cura di questo ritorno al futuro, quindi questo suono che viene trattato in maniera quasi chirurgica in Claro Intelletto, che è iniziato a stampare nel 2003, Warhouse Session è appunto la serie di mix che sono usciti appunto a nome di Claro Intelletto. E appunto, se riferimento alla prima techno di Underground Resistance, la techno di Detroit, ma soprattutto quella elettro volutamente, insomma, ricercata dentro il battito funk elettronico, si schiarisce, diventa, insomma, quasi materia matematica. Sicuramente, insomma, c'è questo riferimento al passato, quindi è molto chiaro in Claro Intelletto, che se si riferiscono, insomma, all'America, essendo pure inglesi, con la scienza di Autechre, invece con Fonesia si va direttamente, si ritorna direttamente a Autechre. Si ritorna a Autechre, anche se Fonesia poi è un progetto costituito da due personaggi che a Miami nel 1994 in Florida hanno costituito questo progetto. In realtà, andiamo proprio a dire, i due personaggi sono Joshua Kay e Romolo De Castiglio, che hanno poi appunto anche costruito e realizzato e messo in piedi l'etichetta Schematic, che ha prodotto gran parte dei suoi lavori, e altri progetti da altri autori che si muovono appunto nella dimensione post-otrechiana. È chiaro che Fonesia lavora su questo piano, ma dobbiamo anche dire che all'interno appunto delle sonorità e della loro techno, extra techno, come abbiamo definita poi la trasmissione di stasera, emergono sicuramente degli influssi legati alla techno americana, in particolare anche a certe diramazioni che abbiamo ascoltato e ascolteremo anche nel corso del proseguio della seconda parte di Extra Techno e T00 di stasera. Ci andiamo ad ascoltare proprio da Fonesia il disco The Missions, uscito proprio qualche mese fa nel 2011. Ci andiamo ad ascoltare una traccia che dà l'idea appunto delle sonorità che espongono in Fonesia, con delle aperture anche di tipo ambientale e sonoro interessanti, forse anche condizionate appunto da un certo drone e da un certo suono che in America, appunto, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, un certo noise ha elaborato negli ultimi anni, appunto degli anni zero. Fonesia, The Missions. Thank you.

Dunque, Fonesia, Josh Ache, Romola del Castiglio, disco The Missions 2011. Certamente si sente tanto ancora l'influsso della dimensione post-techno e dei riferimenti chiaramente otecriani per molti versi, anche affexiani per altri, ma c'è il tentativo comunque, almeno questo si percepisce da parte di questa formazione, di andare un po' oltre, anche se fanno fatica ancora ad uscire da quel tipo di categorie, a quel tipo di strutture, di suoni, anche se appunto in alcuni momenti si nota una certa attenzione maggiore forse rispetto anche ai primi lavori di questo progetto che è partito nel 1997 proprio con la Warp Records, il loro primo EP nel 1997, e poi appunto creando l'etichetta loro alla fine degli anni 90 hanno cominciato a elaborare, oltre ai loro progetti, anche a produrre progetti di altri autori. Però diciamo che negli ultimi anni hanno cercato di rimettersi un po' in gioco, anche se appunto non è ancora perfettamente riuscito il passaggio da quell'epoca storica, a cui sembrano ancora un pochettino bloccati, usiamo questo termine per essere leggeri. E da Fonesia andiamo a trovare invece una formazione cardine che all'inizio degli anni zero è stata assolutamente seminale, passami il termine, hanno seminato. Beh, in effetti Dead Beat di fatto hanno creato un suono che si andava a interrogare in maniera piuttosto intelligente su quello che era stato fatto da Maurizio della Bass Channel, della Chain Reaction, quindi quel suono techno, micro techno dentro appunto un dub che trasformava la materia techno in qualcosa di quasi astratto, se non in alcune parti come Rhythm and Sound, veramente effettivamente fuori anche dalla categoria techno e quindi proprio astratto. E Dead Beat ripartono da quel discorso appunto Basic Channel di Maurizio, Rhythm and Sound, Tiki Man eccetera, e elaborano tra l'altro un suono che si ciba anche di autecre, di sonorità comunque decisamente chirurgiche come quelle anche di Fonesia, che tra l'altro vengono da Miami, città da dove hanno attinto moltissimo autecre, perché c'è stata una scena elettro particolare a Miami, quindi una sorta anche di ritorno, no? di gioco di specchi e di riflessi che tornano insomma in maniera piuttosto anche curiosa, se prima Miami è di riferimento, poi per autecre, poi diventerà per una formazione di Miami riferimento a autecre, cioè, quindi insomma un'anche psicogeografia che si muove dentro questo discorso, insomma, di prendere, non riprendere, creare una atemporalità o perdersi dentro il tempo o ritrovare o ricercare un futuro smarrito nel tempo. Dead Beat forse erano più dentro il presente nel 2001 quando uscirono con Primordia, tuttora piuttosto attivi e creano anche un ponte piuttosto particolare Dead Beat rispetto appunto a quella micro dub techno di Basic Channel, anche rispetto a quello che poi sarà il dubstep, perché comunque lo tingono di queste arie urbane che avvicinano molto poi quello che sarà il dubstep, che scoppierà insomma intorno alla metà degli anni zero per arrivare insomma ai nostri giorni, ancora ricco di inventiva e di carica insomma creativa. Per il momento Dead Beat, quindi, dentro questo discorso tra quello che era il dub techno e quello che è ancora con la dubstep. Thank you. Bene, ascoltato per intero That Beat dal suo primo disco, poi in realtà disco veramente notevole perché riusciva insomma a spostare quella che era stata la ricerca, come dicevamo prima, di Basic Channel verso quegli umori urbani che saranno insomma per buona parte ripresi da dubstep e dalle musiche più filmiche legate a questa attitudine, a questo genere nato soprattutto insomma nella città inglese per antonomasia, Londra e soprattutto le sue periferie, quindi con quel suono che chiaramente va a impattare con la metropoli, con anche gli spazi anche che si dilatano in maniera quasi ricordando Antonioni, in questo senso della periferia che diventa scuro, un tunnel paranoico, paranoide, ma anche diventa luogo che porta verso una sorta di distopia, quindi anche di astrazione dalla realtà, seppure in chiave appunto decisamente nera e forse si potrebbe anche dire pessimistica, poi in realtà non lo è, anche se Dead Beat, insomma, il nome potrebbe portare anche a questo. In realtà appunto c'è un senso anche di fuoriuscita, in questo senso l'extra è piuttosto, insomma, sottolineato dentro le musiche di Dead Beat, questo E.T., chiaramente facendo il gioco del famoso alieno, uno dei famosi, più famosi forse alieni della celluloide, ma qua appunto c'è anche questo desiderio proprio attraverso l'alienazione quasi di anche questo è un aspetto urbano, di andare proprio fuori, di fatto, insomma, poi musicalmente molte delle musiche, soprattutto delle prime musiche di Dead Beat, portano questo deragliamento, questo extra, questo fuoriuscita. D'altronde poi anche l'ultima parte della trasmissione di 451 sarà proprio quasi un da fuori a dentro, anche in questo senso l'extra, cercheremo insomma di farlo insomma rientrare, quindi la techno che viene vista da fuori per poi appunto rientrare in essa. Dead Beat forse sono a metà strada, forse una sorta di limite tra questo dentro, essere dentro nel senso di essere pienamente techno, e questo fuori, perché appunto la materia dubbistica poi porta veramente verso altri territori extra techno di fatto. E adesso da questi territori appunto extraterno ben esplicitati dal buon Max, soprattutto riferiti che mi fa ridere subito Dead Beat con il loro suono chiaramente riferito anche a una dimensione dubbata, andiamo invece a trovare una formazione che entra perfettamente dentro il discorso extratecno, perché nel proprio sviluppo musicale parte intanto da una dimensione fondamentale nell'ambito della techno, c'è la scena di Detroit, una formazione nata a Detroit nel 1995 che ha lavorato appunto ovviamente molto influenzata dalla dimensione ovviamente detroitiana, possiamo definirlo così, e debutta appunto con una etichetta di Detroit, la Data Physic, nel 1995 con un mini LP, e poi successivamente sempre con questa etichetta farà uscire altri due EP per arrivare poi a costruire praticamente il primo importante lavoro all'inizio degli anni zero, e per poi sviluppare ancora un altro progetto che finirà a essere realizzato l'album che andiamo a ascoltare proprio adesso, cioè Calabi House Space, che è uscito appunto per la Reflex nel 2007. La cosa interessante è il nome anche di questo progetto, perché è un nome chiaramente tedesco, Doppler Effect. Ecco, questo è stato scelto da questa formazione proprio per tributare i Kraftwerk, che sono stati fondanti, e questo è un discorso che abbiamo trovato spesso, no? Questo riferimento tra Germania e Stati Uniti, l'Afro-Germania, la scena di Detroit che poi pescava appunto in Germania, viceversa, proprio per l'influenza reciproche che ci sono state nel corso anche degli anni, nel tempo, proprio in fasi storiche differenti, e lo ritroviamo perfettamente dentro il discorso che andremo appunto anche a sentire stasera sera con i Doppler Effect. Ricordiamo ancora l'album Calabi Out Space 2007. Buon ascolto. E siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto un mix piuttosto coinvolgente, almeno per noi che ci siamo completamente immersi in questo flusso sonoro. Abbiamo mixato lo splendido lavoro di Doppler Effect con un progetto appena nato, proprio recentissimo, uscito nel 2011, progetto intitolato e denominato Blank Mass, Black Mass, che ha fatto uscire appunto questo disco omonimo nel 2011. Musica dronica con aspetti rumoristi, ma anche con dimensioni sicuramente molto spaziali, dunque con sonorità che riecheggiano certi passaggi musicali fondamentali che hanno attraversato la musica cosmica e non solo, la musica spaziale in generale, ma con una fortissima attenzione al suono, un'attenzione sonora che è subito avvertibile nell'ascolto dell'intero disco, un suono estremamente attento, ricercato in tutte le frequenze e anche sorprendente in alcuni passaggi, con delle dinamiche armoniche, a tratti anche melodiche molto suggestive, che fanno sicuramente ricordare molto l'idea anche della colonna sonora filmica, di film di fantascienza, di viaggi cosmici, di ET, insomma, di un ET malato che stasera abbiamo voluto rappresentare, un ET 00, un Extra Techno 00, che stasera abbiamo rappresentato, almeno cercato almeno di rappresentare attraverso il percorso della prima e di questa seconda parte. Blank Mass entra proprio dentro questo flusso sonoro, questa spazialità, e Black Mass, che è oltretutto un personaggio importantissimo perché è Benjamin John Power, cioè un elemento di Fuck Bottoms. Sì, parlando di Fuck Bottoms, chiaramente il riferimento già Eliseo, insomma, nella sua presentazione della splendida progettualità di Black Mass, come dire, rimandava tutto il mondo techno visionario, appunto questo cosmo virato dentro questa melanconia che si sente in buona parte della Detroit techno, e che dentro Black Mass prende proprio l'avvio cosmicheggiante, ricordando insomma certe forme vicine di Craig, meno ritmico, i primissimi lavori per il Retroactive. E Fuck Bottoms poi, tra l'altro, insomma, hanno reinventato anche proprio la techno rumorista, questa techno che devia verso il noise, una delle progettualità sicuramente più importanti di questi ultimi anni, che ancora molto da esprimere, ancora esprimerà tanto. E non è un caso, ad esempio, anche la produzione dell'ultimo Fuck Bottoms con Andrew Waterall, storico della Warm, ma storico visionario delle techno più spostate, più marziane, che si possono insomma sentire tra gli anni 90 e anche insomma in buona parte degli anni 0. Sono insieme al personaggio che stiamo per andare a trovare veramente delle mutazioni, delle sorte di fuoriuscite dalla, e questo un po' prima l'accennavamo, cioè da fuori tornare dentro la techno, ma appunto per riplasmare l'intera materia. Sia Fuck Bottom sia Black Mass fa questo, come d'altronde fa anche così il personaggio a cui dedichiamo due pezzi adesso, addirittura uno con un personaggio che veramente, parlando di techno, dice cosa diavolo c'entra. In realtà con Boris veramente si va dentro un mondo a dir poco pazzesco, per quante progettualità in termini di stili e di sperimentazioni sui generi. Eh sì, infatti troviamo questo progetto Boris with Merzbo, dunque abbastanza dirompente questo tipo di collaborazione. L'album è appena uscito nel 2011, Clutter, un lavoro interessantissimo, appunto, che bene è stato già introdotto da Max, una miscela sonora piuttosto interessante che spazia dal noise ad elementi psichedelici, chiaramente a droni sonori, ma anche a delle ritmiche che sono una sorta di incrocio quasi sottostanti, no? Ritmiche che sentirete nel brano in particolar modo, nel primo ma anche nel secondo, è una ritmica quasi non neanche più neanche tanto in soffitta, in cantina, cioè si sente proprio lo-fi, lontana, che ricorda in parte una battuta techno, ma in parte anche una battuta metal. Dunque c'è proprio questo incrocio che sembrerebbe assurdo. Sembra assurdo, ma in realtà non lo è, perché una batteria con cassa dritta anche il metal lo utilizza sempre, e anche ovviamente la techno, riportata in questa sorta di dialogo musicale, un linguaggio che si fonde, ed è un esperimento, una strada che forse potrebbe anche portare nel proseguo degli anni a delle strade, a dei percorsi inaspettati. Dunque sarà sicuramente da seguire. Boris, costituita come formazione da Atsuo, Wata e Takeshi, che sono poi i nomi dei personaggi che poi hanno voluto darsi soltanto questo tipo di nominativo, e ovviamente Masami Akita, che è Merzbo, che lavora insieme a questo disco uscito appunto nel 2011. E l'altro invece è Attention Please, tra l'altro uscito nello stesso periodo, quindi Boris praticamente si sono inventati insieme a Sanoi il metal drone, hanno fatto le sorte di psichedelia hard alla Hawkwind, ripescando insomma gli anni 70, quelli più metallici in termini psichedelici, e adesso con Attention Please, ma anche parzialmente con questo lavoro con Merzbow sorprendente, si reinventano proprio il techno-pop, l'elettropop viene riletto, quasi appunto ritrovando una matrice che sembrava smarrita, in questo senso retrofuturista, dando appunto quell'immagine decisamente aliena anche di quello che era quella musica, forse in nuce più che poi espressa, e poi diventata insomma musica anche di largo consumo intorno alla metà, la prima metà degli anni 80. In realtà Boris riesce a ritrovare proprio quell'elemento disturbante, alieno del primo techno-pop o elettropop di si voglia. Ci andiamo a sentire. Andiamo a sentircelo insieme. Due pezzi, sia da Merzbow e poi invece Attention Please. Sì. Fuck Bottoms, ma che Fuck Bottoms, uno potrebbe dire, no, il riferimento chiaramente era tra Boris e Fuck Bottoms, questo giochino tra Blank Mass, appunto uno dei Fuck Bottoms, e il lavoro, diremmo a dir poco eclettico, di Boris, questa formazione decisamente estrosa, che è appunto tra metal drone, psichedelie, hard e a questo punto anche pop, techno pop, e quindi un ritorno delle origini che magari per tanti aspetti sono state rilette negli anni 80 in maniera pedissequa, e quindi non trovando poi se non clonando una particolare originalità, anzi perdendola, ci stiamo riferendo insomma a buona parte dell'Electro Clash. Invece qua diventa una faccenda piuttosto particolare, diventa quasi un riesumare quel lato nascosto che nel primo techno pop usciva, quello di Warm Letteret, di TVOD, di Normal, di certe prime cose della Mute Record, quindi di Fag Gadget ad esempio, tanto per citare insomma artisti che hanno lavorato col techno pop ma in quella maniera obliqua, alternativa, a volte anche vicina all'antagonismo industrial, quindi veramente si va dentro territori insomma minati, e Boris riesce insomma a far uscire un disco intelligente trattando una materia che in questi anni è stata più che altro insomma trattata e bistrattata anche per insomma il suo valore strettamente insomma clonante, come dicevo prima. E siamo arrivati alla fine, cara. Eh sì, siamo arrivati alla fine. Senti un po' clone anche tu? Ma sì. Mi sento molto Mari e Monti. Mari e Monti, Monti, ma sì. No, Mario. Mario e o Monti. Monti. Mari o questa. Monti. Mari e Monti. No, Mari o Monti. ma sarà un leitmotiv, preparati. Adesso diventa Super Mario. Sono usciti un sacco. Faranno dei film, secondo me. Faranno anche una striscia fumettistica su Monti che salva tutto. Salva tutto. Tutto. Sì, lo chiamano dappertutto. Lo chiamano dappertutto e lui risolve anche tutto. Anche nello spazio. Cyber Mario. Cyber Monti. Cyber Monti dappertutto. Radio Monti. Troveremo un sacco di manifesti in giro, grazie Monti, anche se non ha fatto ancora grazie Monti niente, però le farà purtroppo quello discorso e le farà di grosse, poi tutti quanti andranno a dire vabbè, non è colpa sua, è colpa di qualcos'altro, di qualcun altro, di Berlusconi, è sempre lui che è la soluzione, è nemico semplice, mannaggia, guarda, di Berlusconi, capito? La BCE non c'entra niente, non c'entra niente, così, non è questione di capitalismo, no, non è questione di capitalismo, forza Monti, Berlusconi, Monti, forza Monti, abbasso Berlusconi, finiamo così, la bella trasmissione che ricorderà appunto E.T. potrebbe essere anche Monti che è sceso, capito, e poi telefono extra, casa extra Monti, e fa telefono casa, però paghi di più della bolletta. Buonanotte.